La Anthony Perkins Productions presenta A Rebours. Marginali d'ogni tempo e d'ogni arte, o quasi. Un pellegrinaggio. Dopo anni di abbandono, un pellegrinaggio a rievocare la memoria di una vita trascorsa fra le altre in segreto. Solo oggi sappiamo come si consumò silenziosamente la sua tragedia, con la sola compagnia dei suoi fantasmi, in un estenuante sforzo di comunicare con gli altri, chiuso oltre quella soglia. Le fantasie fervide dell'uomo che solo da poco abbiamo imparato a conoscere e ad amare. Un fiume di parole, di immagini, nacquero qui. Nacquero qui i suoi personaggi, ironici, dolorosi, grotteschi. Le trame realistiche o paradossali, un travolgente bagaglio di esperienza umana consegnato a noi, alla nostra meditazione, attraverso le pagine dei suoi romanzi. Benvenuti a tutti a questa nuova puntata di A Rebours, in onda, si fa per dire, su Radio Zammer. Questa volta, come avete sentito, la puntata non inizia con i Borghesi e la mia voce, ma inizia con un estratto sonoro che ci introduce l'artista marginale di stasera, che come avete capito è un romanziere. Il film da cui è tratta la clip audio è un dramma borghese di Florestano Vancino, che era tratta da un romanzo omonimo dell'artista in questione, il grande Guido Morselli, che era nella situazione in vita massima dell'emarginazione per uno scrittore, quello di non essere mai stato pubblicato, nonostante i suoi innumerevoli tentativi. Questa sera cercherò ovviamente non di fare una monografia come sempre su Morselli, non è lo scopo di A Rebours, ma di darvi un ritratto sonoro per quanto nel possibile, anche attraverso un paio di video che trovate sulla rete e che sentirete, chicche che hanno a che fare con la variopinta scrittura di Morselli, tutta inedita nonostante i suoi innumerevoli tentativi in vita, per cui vi invito ad andare a leggere le sue biografie, basta anche quella di Wikipedia, ma soprattutto se ci riuscite a comprare i suoi libri nelle edizioni a quasi tutti, soprattutto io ricordo il suo primo libro che ho comprato, Un comunista, c'è la ricostruzione di tutta la sfida che lo ha attraversato nella sua vita, andando qualche volta un tanto così dalla pubblicazione, perché i suoi libri in realtà dagli editor, dai responsabili delle collane erano apprezzati, ma c'era sempre qualcosa che non andava, finché alla fine ci sarà una fine che vi dirò soltanto, per chi non la sa, alla fine di questo programma. Ma è lei? Ah, credeva che fosse un cliente. Dove sono questi due? Due ha detto, vero? Due. Pensavo di non aver capito bene. Al telefono. Due in un colpo, fuori stagione. Alla suite 48. Tutti e due? Sì. Ah, due come? Eh? Maschi, femmine. O maschio e femmine. Sì, uomo e donna. Non li ho visti, sono montato di turno adesso. Ho trovato il biglietto. Hanno lo stesso cognome. Marito e moglie. Del Greek? Ambienti? Momentite. Sicuramente. Piero del Vittoria, Lugano. Yeah? Che piano? Secondo, avverto che sta salendo. Ah, scusami, papà. Non avevo sentito entrare il dottore. Signorina, i miei rispetti. La figliola si è afferrato bene, eh? Ha afferrato benissimo. E anche lei è ammalata. Respiri? Basta. Padre e figlia. Mi avevano detto una coppia. Allora pensavo una doppia influenza, un doppio raffreddore. Capita tra marito e moglie. O magari un doppio imbarazzo di stomaco procurato a un festino. Un festino addirittura? No, eh. Non abbiamo avuto proprio il tempo di fare dei festini, io e Mimmina. Si giri? Adesso si sdrai? Comunque, grazie. È molto raro nelle coppie trovare i medesimi disturbi di stomaco. Magari lei ha uno stomaco da struzzo e lui invece, il marito, tende all'ulcera e viceversa. Dottore, lei ancora non mi ha detto che cos'ho. Ah no, lei non ha niente, la diagnosi non è difficile, non c'è proprio di che preoccuparsi per bacco. Soltanto questo attacco reumatico che si manifesta in modo così acuto. Invece è più difficile la terapia, perché oggi la scienza dispone solo di analgesici efficaci, sì, efficacissimi, ma la malattia resta. Non abbiamo medicine che l'attacchino nella sua essenza, come direbbe un medico del Settecento. La ringrazio, dottore. Ma ora mi farebbe un piacere se visitasse anche mia figlia. Certo, subito, per me. È molto simpatico il dottore. Com'è il suo nome? Vanetti. Vuole visitarmi qui? Beh, forse è meglio di no. Qui daremo disturbo al signore, il suo papà. Venga allora. Certo, permesso. Lei ha figli, dottore? Sì, sei. Come deve essere bello vivere in una famiglia così numerosa. Io sono figlia unica. Sì, ma anche una famiglia numerosa ha i suoi problemi. Dottore, vorrei sapere perché questa ragazza ha quelle linee di febbre. Sono 12 giorni che è stata operata l'appendice. Vedo, infatti. Operata qui a Lugano? No, a Ginevra. Ah. Appena arrivati l'altra sera, ci siamo messi tutte e due a letto. Per bacco, capisco. Una bella seccatura ammalarsi in albergo. Ho chiamato il 333. Un amico nella notte. Ironia? Escluderei. Quanto ai samaritanismi ipocriti della nostra società che offre una mano a coloro che lei, proprio lei, butta nel fosso, sono luoghi comuni di cui nelle circostanze potevo fare a meno. Niente altro che un'insipida curiosità. Sentire una voce sonnacchiosa. Mi dica, gentile amico, coraggio, mi dica. E riappendere. E darmi momentaneo riparo. Si era messo a piovere a scrosci, una pioggia gelida. Il 333 non ha risposto. Un guasto alla linea? Ho formato il numero 11. L'ora esatta. E quella chiocciava. Sono le 2:00 minuti, sono le 2:00 minuti, sono le 2:00. Risalivo il sentiero verso casa. O risalivo l'imbuto. Non recriminazioni, accuse di codardia a me stesso. Fastidio. E basta. Chi ha conosciuto questi differimenti? Commutazioni di pena, io li chiamavo dopo due precedenti esperienze, non si meraviglierà. Steso sul letto, senza spogliarmi, intirizzito dai piedi agli orecchi, la faccenda del sifone o dell'imbuto non mi sembrava lugubremente macchinosa com'era, casomai pretestuosa e vagamente teatrale. Se la soluzione finale, liscia e pulita, facile, l'aveva a portata di mano. Sono andato a prenderla, la mia ragazza dall'occhio nero. Mi sono ridisteso sul letto con lei. Ho premuto la bocca sulla sua. A lungo. L'ho sollecitata col dito una prima volta, non abbastanza a fondo, e una seconda volta, sempre con la bocca sulla sua, non la terza, perché d'un tratto l'ombra mi ha avvolto e la quiete. Avete sentito in successione Avatar dei Dissoluzio Umani Generis, una band milanese di wave degli anni 80, la sigla del cui nome ricalcava esattamente il DHG del Dissipazio Umani Generis dell'ultimo romanzo di Morselli. In successione avete visto, sentito ancora uno spezzone di un dramma borghese di Florestano, Vancini, esattamente l'inizio del film ispirato, tratto dal romanzo, sempre da un altro romanzo di Guido Morselli, e successivamente una mia lettura di un brano significativo dello stesso Dissipazio, a cui è seguito invece un pezzo della colonna sonora del maestro Ritz Artolani del film di Vancini, intitolato Barocco Pop. Поищи на важной клетке Нашечки баллон Нашечки баллон Come va? Come va? Come va? Come va? Va male! Sommerso da bozze di stampa da correggere. Per dare dignità e coscienza alla vita degli altri sto rinunciando a vivere la mia. Credo verrò risucchiato come il maestro di carta. Avevo un organismo da lottatore e credo invece che morirò prima del mio ciclo biologico, diciamo così. Ma io invidiavo i britannici che combattevano contro gli schiavisti, come ora invidio gli austriaci che combattono contro i prussiani, ma soprattutto invidio i marinai sui Clippers che, salutando il porto di Londra, gridano Farewell Old London, Farewell Old London. Ma è più di una volta l'abbiamo attesa in Europa. Sì, è venuto anche lei qui per invitarmi a tornare in Europa, come fa fatto più volte la Salle. Qui, tra queste stanze, queste pareti, l'ultima volta era l'estate del 1862, ma quello era un omuncolo. Di la storia non parliamo, per piacere. I morti si giudicano in sede storica o con l'affetto. Comunque anch'io più di una volta ho sperato che lei scendesse in Italia, in particolare a Milano o a Venezia, per la causa del popolo. Il popolo? Qui tra queste carte c'è solo il proletariato e nell'accezione che noi ne propugniamo, scientifica. Beh, allora amico mio, non si lamenti. A me e ad altri la lotta. Questo non è un pesto, questa è una schifezza, questa è una farsa. E io l'avevo detto, e Marx non può essere trattato in questa maniera, pertanto io ho deciso non disinurare, questo non è un sabotaggio. Io sto esprimendo una formale e pubblica accusa. Basta. Questa è una protesta. Basta, Andrea. La invito a fare il proprio dovere, lei è un professionista, quindi ritorni a fare il proprio dovere, sipario. Adesso iniziamo subito, eh? Devo parlarle, rappresento l'opinione. Karl Marx fu definito imperatore dell'anima, Prometeo destinato a condurre tutta la razza umana. Sono parole di Enrico Loria. E chi è questo Enrico Loria? Stia zitto lei. Benedetto Croce lo accusava di inferiorità psichica, di essere dotato di odio e non di cuore, di avere avuto su tutti gli uomini un'influenza nefasta. Il carro imboccò la strada, procedette sicuro. Con uno scatto d'automi i tedeschi si levarono, ci vennero incontro correndo alla baionetta. Soldati vecchi e giovani, grotteschi nelle loro giubbe troppo larghe, allucinati e pietosi nei loro volti irsuti, bruttati di fango. Decine e decine di uomini in file serrate, gesticolanti contro il carro. Sul loro furore i cingoli irrompevano, schiantando, maciullando, e ancora ne sbucavano fuori dalla cinta smantellata, goffamente branditi i fucili a due mani, e si gettavano per la discesa all'assalto, intanto che altri spingevano i cannoni in batteria, li puntavano, accanendosi sui congegni inceppati. Lo strepito del carro era così alto da coprire gli spari, oppure quella gente non faceva uso delle proprie armi, dalle feritoie nostre guardavano senza capire, ma tutto era ben reale, tangibile. I corpi che giacevano a terra erano corpi di uomini, convulsi nello spasimo o inerti nell'abbandono della morte. La carneficina non richiese che qualche istante e fu compiuta con pochi tiri a bruciapelo delle mitragliatrici di bordo. Avevo al mio fianco il capocarro, Graetz, un californiano oriundo sassone. Lo vidi arrestare il veicolo, balzare al portello, scendere a precipizio. Eravamo sotto il muraglione esterno, davanti all'ingresso. Una grossa targa vi penzolava, ancora leggibile. Graetz la staccò, mostrandocela, con un riso che nell'improvviso silenzio suonò assurdo e sinistro. In Restalt, manicomio, egli ci tradusse. Il resto ci fu spiegato dai due medici che, con gli infermieri e la nostra staffetta, rinvenimmo legati in fondo a un sotterraneo, affamati ma illesi. I loro ospiti si erano ammutinati il giorno precedente. Li guidava nel dissennato disegno un certo Schilpke, falegname di mestiere e rinchiuso sin dal 1922 per i postumi di una ferita cranica riportata in uno scontro con gli americani nel 18 sulla Mosa. La mania di costui era sembrata innocua. Aveva arreggimentato i compagni, li aveva addestrati a rigida disciplina. Ogni nuovo ricoverato, una recluta. Con le sue mani, in 20 anni di lavoro, si era fabbricato un vero arsenale, cannoni e fucili di legno verniciato, elmetti di lamierino e vessilli e distintivi. Per Schilpke il Kaiser regnava sempre. La guerra in cui lui aveva combattuto non era finita. E la sua certezza si era fatta trionfale quando aerei alleati, alcune settimane prima, avevano colpito l'edificio, i simboli della Croce Rossa che lo contrassegnavano, essendo nascosti dalla neve. Bene, stiamo avvicinandoci alla fine del nostro incontro con Guido Morselli, e precedentemente avete sentito un frammento audio di una messa in scena di un'azione scenica che si intitolava Marx, rottura verso l'uomo, un unicum, credo, dei testi di Morselli per il teatro, che come quelli per la televisione e per il cinema, tutti rigorosamente rifiutati e rimandati al mittente, quindi una messa in scena postuma, ovviamente. Poi un pezzo dei DHG, ancora Il duro cammino, tratto dal loro unico disco, e la mia lettura di quello che penso sia il più bel racconto di Guido Morselli, una parte, ovviamente una piccola parte, Gli ultimi eroi. Gli ultimi eroi è anche il titolo di un bel libro uscito per Il Saggiatore, credo l'anno scorso, in cui sono raccolti tutti i racconti e anche gli altri testi che dicevo, i tentativi teatrali, i soggetti, tutti respinti, ovviamente. Io adesso vi saluto e vi rimando la prossima settimana con la prossima puntata di Ulisse contro tutti, e tra due con la prossima di Arebu. Buonanotte. Quel tragico colpo di pistola, l'eco delle sue più segrete ossessioni, si riverbera ancora fra queste mura. Come può nascere l'idea di porre fine alla propria vita? possibilità di farsi capire, di farsi amare. Nel romanzo Un dramma borghese di Guido Morselli, dalle ultime righe si può dedurre che Mimina ha qualche probabilità di salvarsi. Non si salvò invece Guido, lo scrittore Guido Morselli, che morì suicida a Varese il 1 agosto 1973 nella disperata solitudine in cui aveva concepito le sue opere. À rebours, à rebours.